Le mie illusioni si mangiano tra loro, come corvi dalle piume d'oro, come cani dalle piume d'oro. Estetica, le ambizioni da rockstar, e apprezziamo i tuoi calli, le tue mani insanguinate attorno alla mia gola, ma stai attento alle lenzuola. Solo Londra, grigio e corrotto.